rischia di passare per sfigati se non si è trendy griffati con i soldi mai contati. Io non lo so se è così, solo nella mia città non sei nessuno, ma i soldi li sgancia papà. Per me fa figo essere quello che sono e non aspiro a stare in TV sopra ad un trono. E a tutti quelli che non si fanno sentire, quando li senti sai ti stavo per chiamare. E a tutto ok, sì dai, vieni un po' a guardare la mia marmita e le mie gomme da neve. Io non so se è così in qualunque città, Torino, Milano oppure Roma. Sembrate star vissute e noi sempre in declino, come i leoni da quando c'è l'orso allo zoo di Berlino. Se la tua tipa non la fai parlare con nessuno, preoccupazione che qualcuno le possa fare il filo. Ma non ti rendi conto, guarda te stesso, ma chi te lo piglia è proprio un cesso. E non mi importa di passare per cretino, se scherzo ride faccio il treno ancora con Maracaibo. Per me fa figo essere quello che sono e non aspiro a stare in TV sopra ad un trono. A tutti quelli che non si fanno sentire liberi col piandù solo per rimorchiare, e con il woofer la radio spara più. Che cazzo serve se ti ascolti Gigi D'Alessio? Io non so se è così in qualunque città, Torino, Milano oppure Roma. Sembrate star vissute e noi sempre in declino, come i leoni da quando c'è l'orso allo zoo di Berlino. Io non so se è così in qualunque città, Parigi, New York oppure Londra. Ci dite che sapete navigare in ogni mare con la ciambella, perché non sapete neanche nuotare. Io non so se è così in qualunque città, in qualunque città, in qualunque città, in qualunque città, in qualunque città, in qualunque città.